vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 11 di Ratto di Campagna e Topolino di Città, il programma di Radio Big World che tenta di insegnare agli zoticoni campagnoli come me un po' di buone maniere per presentarsi in città senza che ci additino e dicano: ma guarda quello, viene dalla provincia, ma dove ha lasciato il trattore? Per fare questo io non sono certamente adatto, perché io campagnolo lo sono, io zoticone lo sono, io il trattore ce l'ho parcheggiato qui fuori. Pertanto ci necessita qualcuno che la città la conosca bene, che la viva, che ci sia nato, nata, nati, e colei che per noi, per gli ascoltatori di Radio Big World, ci guiderà nel mondo della grande città, nel mondo della Firenze, da Savonarola a Matteo Renzi, è colei che, mentre noi mettevamo a punto la macchina a vapore, lei già produceva col laser. Laura! Ciao Giorgio, ciao a tutti. Laura, abbiamo parlato delle feste comandate, di quelle feste che si celebrano a Firenze mentre si celebrano in gran parte d'Italia, in buona parte d'Europa, in una bella fetta del resto del mondo. Ma ci sono delle feste che sono più fiorentine, e non la Pasqua dove c'è lo scoppio del carro, sì, a Firenze si celebra in maniera particolare, ma delle feste che sono solo presenti a Firenze. E la prima festa che mi viene in mente è una festa dove, ma io non essendo di là, ecco, ho delle idee molto vaghe, dove si acquistavano degli insetti, ma che siete in Cina? La famosa festa del grillo, com'è che ti è venuta in mente subito questa? Che è ormai una cosa da nostalgici, però bello, mi piace questa domanda, perché ho dei bellissimi ricordi di queste feste del grillo che, ahimè, sono state eliminate, erano a maggio ogni anno. Perché? Perché gli animalisti, giustamente o non giustamente, lascio a voi il giudizio, hanno avuto da protestare, perché questi poveri animaletti in gabbia che venivano acquistati dai bambini, dai genitori in festa, poverini, dovevano essere liberati, e quindi protesta oggi, protesta domani, la festa del grillo è stata abolita. Però a me piaceva, sinceramente. Ma non si comprava solo il grillo, eh? C'erano anche pesciolini rossi, c'erano le paperelle, c'era di tutto. La classica fiera era molto grande, si faceva alle cascine, e c'era questo sottofondo, cric cric cric cric, il canto del grillo che allietava e si miscolava con l'arietta primaverile. Ma come funzionava? C'erano dei banchini, dei banchi che vendevano grilli in gabbia? Grilli in gabbia, esatto. Poi vabbè, c'era il babbo che raccontava al figlio la storia di Pinocchio, del grillo parlante, c'era un che di magico in questa festa del grillo. Io lo compravo sempre, ti dico, lo compravo sempre, durava poco perché un po' moriva, aveva una vita breve, più breve del pesce rosso, però era un appuntamento fiorentino da non mancare. D'altra parte il grillo com'è? Erbivoro, carnivoro, che gli si dà da mangiare a un grillo? Ah, penso che mangi l'erba, non ricordo, sai, forse per questo mi moriva, perché non lo nutrivo. Ma non vi veniva a voi bambini, che ne so, di liberarli dopo averlo tenuto in gabbia? Non vi veniva di dargli la via, insomma? Ma a me non è mai venuto in mente, perché insomma non facevo in tempo a osservarlo, a giocarci un po', a così compiacermi del povero grillo che mi moriva, però forse fosse durato un po' di più, sì. Così come il pesce rosso lo liberavo nella vasca di Boboli, dopo un po', ecco, no, a questa fase per il grillo non ci sono mai arrivata. Però mi piaceva, soprattutto per la musica di sottofondo, che la sua cantilena, il suo cri cri cri cri. C'ho un amico che ha un figlio che è appassionato di rettili e a questi rettili che c'ha in una specie di rettilario, in una teca, gli danno appunto grilli vivi da mangiare. E una volta gli scapparono dalla scatoletta dove sono contenuti per nutrire l'animale e sentirono fa cri cri cri cri cri cri tutta la notte per l'intero appartamento. Anche il tuo grillo la notte faceva cri cri cri cri cri. Sì, ma poi diventa un rumore di sottofondo. È come quando eravamo al campeggio e sentivamo le cicale cri cri cri cri. La prima ora dicevi: ma senti queste cicale quanto friniscono. E dopo diventava un'abitudine, non ci facevi neanche più caso. Anzi, ti accorgevi solamente quando smetteva, che ti mancava qualcosa. È vero, lo fa per esempio il rumore del traffico, quando dal paese qui si esce, si va nel bosco, ci si alza di altitudine e a un certo punto si sente un silenzio impressionante e solo nel ritornare in città, piano piano avvicinandosi, si comincia a risentire le macchine, i treni e i rumori. Effettivamente fanno così anche i richiami degli animali, che siano uccelli o che siano insetti. Ma infatti, te l'ho detto, il grillo faceva compagnia, era più utile del pesce rosso che è muto. Ma poi questi poveri grilli, li abbiamo liberati dalle gabbie, ma siamo sicuri che stanno meglio o sono andati ad insaporire i piatti dei cinesi? Questo è probabile e è probabile che presto insaporiranno anche i nostri, visto quanto pubblicizzano il ricavare proteine dagli insetti. Prima o poi un bel hamburger di insetti non ce lo toglie nessuno, saranno contenti i cinesi. Ma i cinesi sono piuttosto lontani da quella che è la festa fiorentina par excellence, la festa del santo patrono. E Firenze non è mica che c'ha un santo qualsiasi, c'ha addirittura San Giovanni Battista, che era nato prima, era diventato santo prima di battezzare quel Gesù che poi, mettiamola così, avrebbe fondato quella chiesa che ora dice questo è santo e questo no. Pensate, San Giovanni a Firenze che cos'è? Allora, innanzitutto non confondiamo i cinesi con Firenze, i cinesi stanno a Prato. Ma poi lo sai qual è il santo di Prato? San Zanobi, insomma, il nome stesso, San Zanobi, San Giovanni. Dall'idea, insomma, di quali siano le priorità toscane. San Giovanni... San Giovanni, invece qual è il santo di Montevarchi? Montevarchi ha un paio di patroni, uno è San Lorenzo e un altro è San Macario. Pensa, ecco, vi difendete bene anche voi. Comunque San Giovanni un po' l'inganni, si dice a Firenze. Allora, San Giovanni è la festa per eccellenza, 24 giugno, già a gennaio-febbraio si comincia a chiedere: oh, ma che giorno viene San Giovanni? Vabbè, innanzitutto perché si vuole fare festa un giorno in più al lavoro, perché se viene di sabato o di domenica ci frega, insomma. Perché però, a Firenze uffici è chiuso, tutto insomma. Chiuso, sì, rigorosamente chiuso. Se viene di sabato e di domenica, diciamo, ahimè, l'abbiamo presa in tasca, ecco, per dirla finemente. E allora, San Giovanni, 24 giugno, vuol dire due cose. Vuol dire finale del calcio storico e vuol dire fuochi, senza U. I fuochi di San Giovanni, senza la U, fuochi. Senza la U, i fuochi. Dove vai a vedere fuochi stasera? Si comincia a chiedere dove andiamo, che facciamo, a che ora ci sono. Sì, è sempre alla stessa ora, ma saranno belli, ma come saranno? Dove ci si trova? Con chi si va? E insomma, i fiorentini si organizzano perché i fuochi vanno visti. Non c'è niente da fare. C'è chi torna dal mare prima, chi anticipa la partenza o chi la posticipa, perché appunto i fuochi vanno visti. E il commento ai fuochi è anche interessante. Il classico commento è: erano meglio quelli dell'anno prima. Che ci vuoi fare? D'altra parte il fiorentino, insomma, è un po', non pessimista, un po' criticone, ecco, per natura. Quindi insomma, dire era meglio quelli dell'anno prima lo fa cascare sempre in piedi. Poi tanto chi se le ricorda, no? Quelle dell'anno prima com'era. Decisamente, sì. E quindi bancarelle tutto il giorno, un clima di festa in tutta la città e fuochi d'artificio visti o dal piazzale o dal Ponte alle Grazie, insomma chi c'ha la fortuna di avere un attico invita gli amici, se li guardano comodi da una sdraia magari col naso lì in su, stile, non lo so, stile mare quando uno guarda le stelle cadenti, e così si passa la giornata di festa. Una cosa da fiorentini, qual è il posto migliore secondo te per guardare i fuochi? I fuochi! Guarda, sbagli persona, perché io me lo sono sempre chiesto e non ho mai avuto una risposta. Tutte le volte ho provato a cambiare, ma non sono mai rimasta così soddisfatta. Sai cosa dovrei fare? Dovrei conoscere qualcuno che c'ha un attico verso, non lo so, vicino al piazzale Michelangelo, per vederli in comodità senza teste che mi intralciano la visione. Però non lo so. Generalmente scegli se vederli o meglio dal punto di vista della vicinanza, cioè nel senso più vicini ma con tante teste che ti intralciano la visione, o più lontani però con uno sguardo che può spaziare libero. È a te la scelta. E il calcio storico? Quanto, ecco, è sentito in città? Quanto è partecipato? Allora, il calcio storico, la finale è 24 giugno, San Giovanni, è quasi sempre, chissà perché, bianchi contro azzurri, i rossi e verdi difficilmente ci arrivano, no, non sempre dai, però la finale storica è bianchi e azzurri, è abbastanza sentito soprattutto dai calcianti, che sono appunto coloro che lo praticano, e tutto ciò che ruota intorno, quindi per esempio il mondo del rugby. Firenze ha anche una bella tradizione di rugby, molti calcianti sono ex rugbisti o rugbisti. Forse se sei un po' fuori dal giro lo senti meno, perché è un po' più di nicchia, però tutti ci teniamo a dire: io sono dei bianchi, sono dei verdi, sono dei rossi, a seconda del quartiere, sono degli azzurri. Sì, insomma, alla fine è un segno di riconoscimento più che per sottolineare la nostra passione per il calcio storico, per sottolineare la nostra fiorentinità. È sentito il giusto, almeno da me, ma soprattutto io dico, come si fa il 24 giugno a stare sotto il sole di Santa Croce e a guardare la finale del calcio storico? Ma sì, dipende un po' da che estate si prospetta dal punto di vista climatico, però insomma fa un po' caldo, ti dico la verità, ci vuole proprio una grande passione, soprattutto poi per giocarlo, oppure per fare lo sbandieratore o quello che suona il tamburo, insomma con tutti gli abiti che insomma che noi sappiamo abbastanza coprenti che devono indossare, ma non... Allora forse la risposta è sì, è molto sentito, perché per stare a sudare così tutta la giornata, allora dai, evidentemente quelli che lo fanno, che lo vedono, che lo organizzano sono molto appassionati. Una leggenda, almeno che circola qua da noi, è che i biglietti per la finale siano costosi come quasi impegnare un braccio. È così o è solo una leggenda? Ma no, dai, non lo so quanto voglio un po'. Che dicono? Quanto costa? Non lo so, ti dico la verità. Io preferisco andare a fare un tuffo al mare, magari la sera tornare per vedere i fuochi e poi informarmi su chi ha vinto e gioire se hanno vinto i bianchi, se sono quelli del mio quartiere, ma la mia conoscenza del calcio storico finisce lì. Anzi, ogni tanto la guardo in televisione e dico, ma come fanno questi? Ma non si fanno male. Cioè, tipo, vedi due che si menano, magari l'azione del gioco è da tutt'altra parte del campo, questi continuano a menarsi. Vabbè, contenti loro, che ti devo dire? Non lo so quanto costa. Dice molto questo di Firenze, dei fiorentini e della fiorentinità. E fiorentinissima, passato i caldi torridi dell'inizio estate fiorentina, arriva una festa bizzarra, una festa solo fiorentina, perché ne so io, non credo che in provincia se ne celebri una simile, e che è quella della Rificolona. Ma che roba è? Ma come la fai a conoscere? Barcati i confini del comune di Firenze non la conosce nessuno. Beh, forse... si parla di queste feste, come conosco quella del Grillo, nei libri che parlano di Firenze, in particolare quei bei libri illustrati sulla Firenze di fine 800 o inizio 900, dove alla sezione feste e tradizioni, queste feste, cioè quella del Grillo e la Rificolona, erano... o campeggiano, insomma, per importanza. Sì, è vero, perché sono proprio tipiche di Firenze. Personalmente la festa della Rificolona mi ha lasciato sempre qualche dubbio, perché è un po' cattivella come festa. Allora, i bambini, quelli più piccoli generalmente, escono per mano ai genitori con questa lanterna, con una luce dentro, una candela dentro, e cantano "Ona ona ona, ma che bella rificolona, la mia è con i fiocchi, la tua è coi pidocchi". E con questo ritornello vanno in giro tenendo questa più o meno bella lanterna, appunto la rificolona. Spesso c'ha occhi, naso e bocca, è generalmente giallo, arancione, rossa. Il punto di ritrovo è Piazza Santissima Annunziata, o almeno lo era quando ero piccola io. Che succede però? A fianco di questa schiera di bambini con la rificolona c'è un'altrettanto numerosa schiera, anzi più numerosa schiera, di bambini un po' più cresciuti con la cerbottana. La cerbottana è un'arma pericolosissima, perché con lo stucco spara pallini che devono distruggere la rificolona dei poveri bimbi che la portano così fieri ed orgogliosi in giro. Allora il bambino, tutto fiero della sua rificolona, fa due passi e si imbatte subito in una schiera di ragazzini che pu, pu, pu, pu, in un attimo gliela distruggono. E il bambino puntualmente piange. E così piangevo anch'io, capito? Cioè, per questo che non lo so, non ho mai capito bene il senso di questa battaglia impari, perché poi è una battaglia impari fra cerbottana e rificolona. Generalmente, appunto, da piccolo c'è, cioè, la rificolona, più cresci più prendi la cerbottana. Poi va da sé. L'ho fatta anch'io, mi ero stancata di piangere perché la mia rificolona veniva distrutta, allora sono passata alla cerbottana, però insomma non mi apparteneva molto questo ruolo di cecchino. E poi, quando invece le rificolone da distruggere non ci sono più, la rificolona passa in secondo piano e si va semplicemente a sparare questi pallini con la cerbottana anche alle finestre. E degenera così. Una bella festa fiorentina. Guarda, allora io non voglio, insomma, dire che è così anche adesso, Forse è un ricordo, non lo so, filtrato dalla mia esperienza personale, chissà. Ma la rificolona dunque è una lanterna, e questa lanterna come la si fa? La si fa in casa, c'è la mamma col cartoncino col bambino, oppure si va e si compra dai cinesi? Ma senti, te come faresti al posto di questi poveri bambini che se la vedono distruggere in un attimo? La compreresti dai cinesi, no? Di la verità. Ne comprerei più d'una dai cinesi, così me ne distruggi una, ce n'è un'altra. O se no, c'è chi la faceva con cura, con pazienza, anche molto bella, molto lavorata, però pensa bene poi di metterla in un posto dove i pallini della cerbottana non arrivano, quindi in banca, in una terrazza, e metterla al riparo dalle insidie. Firenze sì ha queste feste che sono cittadine, ma mi domando io, qui da noi in provincia ce le abbiamo? Ci sono le feste più ristrette, cioè legate ad un quartiere, la festa di Santa Croce, la festa di Santo Spirito, non lo so. Diciamo che sono iniziate queste feste di quartiere quando qualche anno fa è iniziata la moda delle notti bianche, notti blu, chiamale come vuoi. Sì, succede che un quartiere chiude le strade, pedonalizza le vie principali, tiene i negozi aperti anche di sera, principalmente d'estate, mette qualche bancarella fuori, con qualche gonfiabile per i bambini, ma ci sono delle belle feste di quartiere in questo senso. E anche un pezzettino di via, per esempio, parlo della mia zona, un pezzettino di via Senese viene chiusa, e vengono festicciole carine, ci danno un po' quella dimensione paesana che a volte vi invidiamo. Quindi, anche se ci sono comunque di stampo moderno, di tradizione moderna, perlomeno quelle antichissime, che ne so, come il Palio di Siena, in realtà non le si fanno più, se si facevano. No, infatti, almeno io non lo so. E Laura, voi fiorentini, o i fiorentini, che è una parola molto grande, in realtà alla fine siete una minoranza a Firenze, perché la gran parte sono tutte persone che o dalla campagna si sono inurbate in città tra gli anni 60 e gli anni 70, o addirittura sono persone di fuori regione arrivate negli anni 80, o chi dagli anni 90 in poi è arrivato sono stranieri, e in particolare i cinesi. Ormai il Capodanno cinese si festeggia anche molto vicino a Firenze, si festeggia anche a Firenze. Ma te l'ho detto prima, non confondiamo Firenze e Prato, per favore, i cinesi se ne stanno a Prato, noi siamo fiorentini. Noi lo festeggiamo il Capodanno cinese, senti un po' qualche tuo amico pratese, dai questa domanda. Quindi voi insieme a Curzio Malaparte gli avete fatto la cordicella ai pratesi, gli avete piazzato lì tutti i cinesi, quando i cinesi saranno più dei pratesi, Prato diventa città metropolitana e buonanotte suonatori. La cosa non è da poco, perché ai pratesi gli raddoppiano praticamente le tasse, visto che la provincia di Firenze oggi è così, è quella che ha le tasse più care della regione. Bene, e su queste indicazioni di Laura su come festeggiare fiorentinamente le ricorrenze e l'anno, la ringraziamo per la sua disponibilità, per la sua fiorentinità in qualche modo concessa a noi poveri campagnoli. Che fai, chiedi perdono? Mai, mai a una fiorentina. No, dai, diciamolo come si chiama la vostra festa del Valdarno. In Valdarno c'è una festa che si chiama Perdono, che viene celebrata nei vari comuni qui della zona e che è in buona sostanza di origine religiosa, ossia il perdono sono quei giorni, i giorni del patrono, in cui chi fa una serie di cose, cioè prende un tot di messe, prende un tot di comunioni, versa un tot di soldi in offerta, riceve il... come si chiama? Riceve il... quello che dà il Papa... riceve l'indulgenza, riceve l'indulgenza. A Montevarchi questa festa però ci è stata imposta, noi non l'avevamo fino al 700, avevamo quella che si chiamava la festa del latte e che di fatto era una festa delle pistole e dei pugnali, perché un po' come a Rio de Janeiro ci scappava il morto e i morti tutti gli anni. Poi arrivò il Granduca e Lorena era un tedesco, chiuse tutto, fece fare festa ai nostri sparatori e ci impose una festa religiosa, lui che era massone e sostanzialmente ateo, sicché pensa te, ateo teista, ecco. Pensa te, va bene. Laura, grazie di essere stata con noi, grazie agli ascoltatori di Radio Big World. Alla prossima puntata. Alla prossima fiorentinata, direi. Olè!